siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Oscar Giannino con noi. Eccoci qua. Ma tu vuoi mettere questa telecamera che io ti posso vedere, ti posso controllare? Ma perché altrimenti non sai come cominciare? Posso dirmi che il gattone è lì. E il cane? Cesare Battisti dal Brasile stava andando all'estero per comprare il vino e per pescare. Ma fammi ridere! No, fammi ridere! No. Che sta venendo fuori dal Parlamento non è la migliore legge, non è neanche la legge che inizialmente ha proposto il PD. Bisogna fare necessità virtù. Ora vi devo dire, essendo entrato come cronista parlamentare e come spettatore curioso a Montecitorio nel lontano 1990, perché secondo me questa legge è tarocca. Giuseppe, il tarocco è un po' la chiave del tempo, no? Cosa diceva Grillo del Partito Democratico? Diceva che il Partito Democratico era un partito di cadaveri. E se lei ha una soluzione per risolvere questo problema, va bene, va bene. Penso che faccia parte delle caratteristiche di un mondo politico anche saper fare passo indietro quando questo è necessario, diciamo, per una causa. Insomma, quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa chiamare un uomo? Non lo so io. Lasciamo perdere, se non posso dire la mia, dite voi quello che volete. No, prego, prego. Oh, fammi parlare! Il degrado del Parlamento è iniziato quando i parlamentari non hanno più risposto a coloro che li hanno votato. Buongiorno, benvenuti, popolo già svegli, 6:32 minuti, 59 secondi e ora scatta il 60°. Noi qui a Radio 24 a farvi compagnia, ad accompagnarvi nella vostra giornata con i baffi più famosi del giornalismo italiano, quelli di Antonio Polito. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Come sono nati questi baffi sul viso di Antonio Polito? Intanto sono diventati una barba a tutti gli effetti. È vero, è vero. Si sono estesi. E sono nati, sono nati quando vivevo a Londra, perché tutti quanti avevano un piercing o un tatuaggio o un taglio alla, insomma, particolare che, di capelli. Io, insomma, era troppo normale. Ho detto, vabbè, mettiamoci un paio di baffi. Ah, quindi sono recenti. Cosa vogliono dire i baffi in un uomo? Ma non so, psicologicamente, se vogliono dire, non so, ricerca di una virilità sopita, non so, peli, quindi probabilmente vorrà dire quello, una distinzione, un tentativo di distinzione che un po' tutti facciamo, no? Ognuno, tu poi ne sai più di me, diciamo, in materia, quindi... è vero, ma io non, se me li tolgo non mi riconosco più. Allora, Antonio Polito, due notizie. Uno dice, se siamo nella riunione di redazione, due notizie ieri: la battaglia strenua sulla legge elettorale o la polemica su Weinstein, il produttore molestatore, il grande dibattito che si è aperto. Su cosa titoleresti sul Corriere di Polito? Ma, insomma, la legge elettorale certamente ci riguarda più da vicino, è la nostra comunità, la nazione, l'Italia. Tra l'altro è una cosa tanto attesa, secondo alcuni è una forma di violenza anche quella, quindi probabilmente questo è un bel link, in effetti se la batte con la violenza sessuale. Però quella è incredibile. Adesso sono usciti fuori gli attori, è uscito Ben Affleck che ha chiesto scusa, anch'io ho molestato, cioè sta diventando un grande lavacro della nazione questa polemica delle classi dirigenti. No, i finanziamenti, Hillary Clinton che ha restituito i soldi che aveva ricevuto da questo produttore che era uno dei numi del Partito Democratico. E qualcuno dice, Masi Argento denuncia dopo 20 anni, lei manda un tweet furibonda dicendo adesso è colpa delle donne se denunciano, mi vergogno, solo in Italia può accadere una cosa così. È vero questo? Ma è una storia, da un lato dimostra l'ipocrisia in cui vive un certo mondo dorato, no? Di Hollywood, degli Stati Uniti, l'elite, vizi privati e pubbliche virtù, no? Perché poi sì, questo signore finanziava un'associazione femminista, era un democratico. Pensa un po' che sarebbe successo se questo fosse stato un finanziatore di Trump, avremmo avuto addirittura le manifestazioni a Washington per le dimissioni del presidente. Invece era un democratico. Quindi c'è questo elemento, c'è una, diciamo un cambiamento rispetto a un tempo abbastanza recente in cui questi atteggiamenti erano considerati più accettabili, perfino dalle donne. E quindi non c'è da meravigliarsi se quindi donne... si denuncia 20 anni dopo non per omertà ma perché è cambiato il costume, sì. Perché ora si può fare? Io penso di sì, io penso che ciò che magari Asia Argento ha vissuto in quel momento come un fatto privato, una sofferenza privata, una situazione imbarazzante privata, perché sai, lei diceva che ha detto che non sapeva come dire di no, non poteva dire di no, perché c'era un rapporto di potere, perché questo è l'elemento cruciale di una, cioè, di una decide violenza, la tua carriera. Sì, io esercito un potere su di te, quindi oggi ha capito, anche grazie al fatto che lo scandalo era già venuto fuori, ha percepito che non era un fatto privato, ma che era un fatto collettivo che riguardava tutte le donne, che quindi era doveroso, era giusto che lei lo dicesse. E poi la gente, persone, quindi cambiano, per dire, oggi Farina Libero, sul Libero l'attacca, tu la difenderesti in questo senso? Ma assolutamente, cioè il discorso è questo: non c'è rapporto consenziente senza la volontà di una, diciamo, di entrambi i partner, no? E questa volontà non la puoi presumere tu, cioè non è che dice ma siccome ci usciva insieme allora vuol dire che lo voleva fare, oppure siccome lavorava con lui voleva fare, non lo puoi presumere. È pienamente nella disponibilità della persona che la esprime o la revoca. Quindi secondo me sì, assolutamente sì. E poi è cambiato il mondo, cioè è cambiato i rapporti tra uomini e donne, i rapporti tra potere e sottoposti, completamente. E poi cambiamo noi. Insomma, io quello che ho fatto a 20 anni oggi magari non lo rifarei perché lo considero sbagliato. O lo considero brutto, quindi io non trovo molto fastidioso questo fatto di rimproverare alle persone, cioè, ogni idea, ogni sentimento che viene espresso deve confrontarsi col proprio comportamento personale, privato. Questa è un'idea abbastanza arrogante di società, secondo me. Allora, un grande dibattito che diventa alto con Antonio Polito, ma entriamo dentro, come dire, la materia organica di questa giornata piena di morti e di feriti, entriamo dentro il fritto misto. L'approvazione, applauso liberatorio, io c'ero per voi a vedere questo grande dibattito parlamentare ieri sera, 375 sì, 215 contrari, gli applausi del PD, gli abbracci all'uscita dall'aula. E Di Maio, sentite Di Maio che ha chiuso il suo intervento con una frase sui pulsanti che sembrava tratta da Matrix. Oggi potete scegliere e mi auguro facciate la scelta giusta per voi e per il Paese. Quando inserirete la mano in questo alloggiamento per votare, avrete tre possibilità: fregarvene, pulsante bianco, far piombare il Paese nel caos, pulsante verde, essere ricordati come coloro che non hanno abbassato la testa e hanno difeso la democrazia, pulsante rosso. Noi la nostra scelta l'abbiamo fatta, fatela anche voi o preparatevi ad assumervene la responsabilità di fronte alla nazione. Viva l'Italia e viva gli italiani liberi. Antonio Polito, era il primo discorso da leader in pectore di Di Maio. Dal punto di vista dell'efficacia dialettica ha superato l'esame? No, ma lui è bravo, Di Maio è bravo, è un prodotto, diciamo, è uno dei rari prodotti giovani della politica italiana, secondo me, di efficacia, di qualità. Ma del resto l'ha detto Berlusconi, no? Che uno che se ne intende di queste cose, ha detto quelli lì, lui e Di Battista sono in gamba. E devo dire che molto della tenuta dell'elettorale, almeno nei sondaggi, del Movimento 5 Stelle, è dovuto al fatto che sono riusciti proprio loro, che volevano che uno valesse uno, no? Che fossero tutti uguali. A costruire realtà, qualcuno che vale due. A costruire qualcuno che vale più degli altri, che ha una capacità di parlare, di ragionare, di esporsi. La russa cult, bisogna fare il cofanetto con le citazioni della Russa in questa legislatura. Dovete smetterla di dire fascistello a Renzi, perché gli fate un complimento. Ah, semmai poi ha aggiunto con molta eleganza è un coglionellum, e ormai se si fa l'elenco di tutti le declinazioni in siamo veramente al top, come direbbero in un altro programma di questo radio. Allora, i forconi che hanno arrestato Rosato, cioè io voglio dire, sono commosso per quegli sforzi che ha dovuto fare il colonnello dei carabinieri, il santo che gestisce l'ordine pubblico a Piazza Montecitorio. Il nome del proletariato lo dichiariamo in arresto. Grazie. Per usurpazione al potere politico. Arrivederci, salve. Ha sorriso, ha salutato e se n'è andato. Com'è questa cosa dell'arresto simbolico, Polito? Ah, non lo so, insomma, Pappalardo, devo dire. Tra l'altro Pappalardo è un ex carabiniere. Esatto, no? sì. Mi sembra uno degli aspetti, quelli peggiori di questo caos politico italiano. Agitatori di piazza, insomma, no? Allora, sia lodato il colonnello Donnarumma, se non ci sono stati morti e feriti, è veramente un mago. D'Alema, lapidato. Quando una maggioranza di 476 persone su 630 ha paura del voto segreto, vuol dire che sono consapevoli che stanno facendo una schifezza. Netto. Durante il comizio di sostegno a Claudio Fava, candidato in Sicilia, e di nuovo, guardate, Weinstein in audio rafforza le accuse. Please, I don't want to do something I don't want. Perché ieri mi hai toccato il seno? È un colloquio che diventa quasi drammatico, fa Ambra Battilana, la showgirl qui celebre perché testimone nell'inchiesta, ricordate, su Arcole, il produttore statunitense che cerca di convincere la modella italiana a entrare nella sua camera e non discutere nel corridoio. E poi, signori, Fedez e Chiara Ferragni che parlano del cane Matilda mentre ricevono il tapiro di Striscia la Notizia. Ho appena fatto la cacca in casa ed è tutta triste. Mati, cosa hai fatto? Cosa hai fatto, Mati? Amore fatto? Mio. Mati, cosa pensi? È andata via, eh? Adesso che è andata via puoi fare finta. I dialoghi fra Fedez e Mati. Allora, siccome so che Polito, oltre a essere uno dei più seriosi e autorevoli commentatori, anche un'anima pop, ti interessa il fenomeno Chiara Ferragni? Fra l'altro questo tema ne parlo adesso, è uscito un piccolo libro che ho fatto sul rapporto genitori-figli e parlo molto di questo tema degli influencer, no? Perché è un'altra degli elementi dei tempi di oggi, dei nostri tempi, che hanno tolto potere alla famiglia, che hanno tolto autorità alla famiglia. Oh mamma mia, sante parole. Sì, perché ci sono una serie di agenzie formative che oggi contano più per i ragazzi della famiglia. E questo, può avere effetti molto negativi, meno negativi, dipende, ma il fatto in sé è sbagliato, no? Già l'espressione influencer, vorrei esattamente capire che cosa vuol dire. Sì, sembra una malattia, sembra un morbo. Quindi non lo so, poi lei sarà una bravissima persona. Devo dire, tra l'altro, io personalmente sono un ammiratore di Fedez, mi piace molto come lo trovo un ragazzo intelligente, sia quando parla sia quando canta. Chiara Ferragni la conosco meno, anche perché non mi abbevero alla sua fonte per vestirmi, per la moda, per ragioni anagrafiche e anche di... Allora, siamo arrivati al tema che vi terrà inchiodati contro i papà, come noi italiani abbiamo rovinato i nostri figli. Ci fermiamo per le strade e poi torniamo subito dopo, già svegli, con Antonio Polito e raccontiamo questo libro che indaga sulla società, sui rapporti fra i padri e i figli. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Ventiquattro mattino. Già svegli. Sono già sveglio perché mi sorprende che di questi tempi tutte le cose che non funzionano sono riconducibili improvvisamente alla giunta Raggi. Ma quelli che hanno governato per 40 anni, di destra o di sinistra. Ma dove cazzo erano quando c'erano questi problemi? Ciao ragazzi, voi seduti comodamente sull'argine ci imponete l'accoglienza, ma state attenti perché la marea nera raggiungerà anche voi e i vostri figli. Oggi sono 41 anni esatti che apro lo studio di medico di famiglia alle 7 la mattina. Sono Alberto da Milano, sono già sveglio tutte le mattine a quest'ora perché mi piacerebbe sapere il nome e il cognome dei soliti amici degli amici degli amici che hanno preso i soldi dalle banche, da Banca Etruria, dal Monte dei Paschi e ci hanno obbligato a metterci i nostri soldi. Grazie, quando me lo direte dormirò più meglio, molto meglio e mi sveglierò ancora meglio. Allora ecco, c'ero con Antonio Polito e stavamo discutendo, allora è quasi un dittico, no? Nel 2012 scrisse Contro il papà, oggi esce questo libro per Marsilio, un pamphlet, Riprendiamoci i nostri figli, il sottotitolo è La solitudine dei padri e la generazione senza eredità. Quindi ovviamente avrete capito che Polito ha una visione comunque molto caustica della famiglia ed è un libro pieno di spunti, capitoli sui rimproveri, sulle paghette. Io per esempio ho scoperto che negli USA, me l'ha raccontato Polito, le paghette valgono 44 miliardi l'anno e che in Italia il 20%, il 25% dei bambini fra i 6 e i 17 anni riceve una paghetta. L'importo medio 8 euro fra i 6 e i 12 anni, si arriva a 20 euro a 17 anni. Polito, quanto dai tu ai tuoi figli? Ma dunque, io ho una figlia, io sono un padre un po' strano perché ho una figlia di 23 e due figli di 8, per cui sono quasi distinti da una generazione. Quella grande ormai, diciamo, vive per conto suo e i due piccoli non hanno ancora paghetta, però hanno un sistema premiale, cioè se si comportano bene durante la settimana, se fanno delle cose giuste prendono dei punti, se le fanno sbagliate perdono dei punti, alla fine della settimana si fa un conto e si trasformano i punti in soldi, insomma. Ma fantastico, ma capita mai che ci sia questa monetizzazione davvero fine settimana a casa Polito? Sì, come no, certo, come no. Cioè, il maschio ha un piccolo gruzzoletto ormai che devo dire che avendo il gruzzoletto lo gestisce con estrema prudenza perché quando si sono taccagni poi. Sì. Quando quei bambini dice sai comprami questo, dice vabbè compralo con i tuoi soldi, allora vedi comincia a farsi conti e certe volte ci rinuncia. Ma tu hai raccontato, io questo non lo sapevo, che Bill Gates non ha concesso il telefonino ai suoi figli fino a 14 anni e dopo ha imposto regole e limiti come il divieto di uso a tavola durante i pasti e addirittura mettendo delle ore screen free. Il telefonino gliel'hai concesso al piccolo? No, quelli di 8 anni non ce l'hanno ancora, ma per fortuna neanche i loro compagni a scuola, anche se però mi dicono e vedo che la questione, diciamo, si porrà, ma sta arrivando molto presto, perché dice 10 anni, 9 anni. Però quello è un punto molto delicato, a che età consentire il telefonino ai figli, secondo me è uno dei grandi temi di quest'epoca, altro che legge elettorale. È vero. E qual è il senso, diciamo, di questi? In fondo sono due libri collegati, no? In uno hai detto sì, i genitori sono in crisi, nell'altro dici dobbiamo recuperare una dimensione di genitorialità. Qual è il senso di questo viaggio che hai fatto? Cioè dov'è che è scomparso questo ruolo dei padri? Ma il primo libro era appunto molto sul ruolo del padre, diciamo sulla dimissione, no? Che noi spesso facciamo diventando i sindacalisti dei nostri figli, no? Quelli che tentano di spianargli la strada e magari sbagliano in questo modo perché esagerano. Questo libro invece è molto più concentrato sui nemici dei padri e dei genitori in generale, cioè su tutte quelle agenzie formative che in qualche modo ci hanno sottratto autorità e credibilità. Ne hai citata una, gli influencer, racconta un altro concorrente. Ma non so, per esempio noi diciamo la scuola, noi diciamo ai nostri figli di studiare e la scuola li promuove anche se non studiano. oppure noi ci raccomandiamo di non fare uso di droghe, le star dei social invece sdoganano lo Spinello Libero, lo sballo. Ecco, cosa gli racconti? Pensa, io ho avuto questo problema quando spiegavo no, le droghe, eccetera, eccetera, e poi cantavamo per tutta l'estate il ritornello proprio della canzone di J-Ax e Fedez con l'inno alle droghe leggere, o capito, certo. Maria Salvador, insomma, e che tu come ti sei posto, tu che hai più esperienza di me, sicuramente più saggezza. Guarda, questo è il punto. È giusto in una canzone, ma non nella vita, cioè come si declinano questi precetti educativi? No, non è così, perché adesso guarda, tutte queste cose rischiano di trasformarsi, e io non voglio in una, diciamo, in una perorazione per vietare, no? No, perché la società aperta oggi nel mondo con internet, con la rete, è fatta così. Però noi possiamo reagire, ecco, possiamo discutere, possiamo contestare, e soprattutto dobbiamo essere messi allo stesso, noi genitori intendo, allo stesso piano di quelli che appunto per esempio propagandano lo sballo e lo Spinello Libero. Cioè noi dobbiamo innanzitutto, attraverso, diciamo, il nostro impegno e anche un'alleanza tra i genitori, dobbiamo essere più presenti nella società, combattere di più, non solo all'interno delle nostre famiglie, dove perdiamo, perché tutto quello che c'è intorno a noi contraddice il nostro messaggio. E questo, questo libro è una specie di invito a una guerra culturale, insomma, una battaglia su queste cose. Non smettiamo di svolgere il nostro ruolo, non diciamo a noi stessi, come spesso ci diciamo, ma tanto ormai che ci vuoi fare, tanto ormai è così. No, perché ci sono delle cose che sono sbagliate. Tu dici, fino a 14 anni i bambini non hanno diritto a nessuna privacy digitale, non raccontiamoci sciocchezze. La difendi? Sì, io questa... dico, questa è la questione famosa del telefonino, cioè si può anche arrivare prima, adesso diciamo l'età che in America ormai è stabilita anche dai social network per accettare un account è 13 anni, no? Sappiamo che in Italia e anche altrove penso i ragazzi ci arrivano prima. Adesso qualsiasi scelta però noi facciamo sull'età con i nostri figli, quello che non accetto è il fatto che diciamo, noi non possiamo più avere un accesso alla vita social dei nostri figli, cioè noi dobbiamo poter esserci, poter vedere, poter controllare, sapere che cosa, con che cosa vengono in contatto i nostri figli attraverso la rete, no? Quindi in questo senso dico, non c'è un appello alla privacy che può giustificare il fatto che tu non guardi nel telefonino di un ragazzo di 11 anni. Bene. Guarda, l'altro giorno ero a un premio letterario, è stata premiata una scrittrice, una signora milanese, madre di quattro figli, che ha raccontato in questo libro la storia del figlio di 13 anni che a 13 anni comincia a non solo a fumare ma anche a spacciare, perché poi mamma mia, un piccolo gruppo. A presentare questo libro c'era un testimone, il padre di un ragazzo che ha fondato poi una fondazione, Emma Pesciolini Rossi, il cui figlio 4 anni fa, partito dagli spinelli, è arrivato a una pasticca di LSD che l'ha spinto a buttarsi nel fiume e a morire. Oggi questo padre gira le scuole, non fa altro, ha smesso ogni altro lavoro, per spiegare ai ragazzi che c'è un problema. Ecco, queste forme di reazione, di combattimento, di presenza, di impegno, i genitori devono averle. Io penso che il libro serva a questo. Cioè, allora, per questo. Riprendiamoci i nostri figli, Marsilio, Antonio Polito, La solitudine dei padri, La generazione senza eredità. Grazie Antonio, ci sentiamo presto. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.